Ciao a tutti gli amici di Radio Big World e ciao a te che ascolti quello che sarà un modo per passare 10 minuti assieme e che parlerà di fontanili, di laghetti, di fiumi che sono le basi per costruire una grande civiltà. Alal era un uomo di media statura, capelli lunghi, barba lunga e incolta. Quella notte Alal aveva dormito sul ramo alto di un albero per proteggersi dagli attacchi di animali che di notte vanno a caccia nella steppa. Alal aveva lasciato da 2 giorni mogli e figli nella capanna sulla collina ed era sceso al piano in cerca di vita migliore per sé e per la famiglia. Aveva bisogno di acqua, selvaggina facile da catturare, bacche, germogli per nutrirsi. Coperto dalla pelle di un animale abbattuto durante la caccia, portava con sé un lungo bastone con una selce tagliente, una clava e poco altro. Prima di arrampicarsi sull'albero dormitorio, si era riempito la pancia con mele selvatiche e aveva bevuto acqua del laghetto prospiciente l'albero su cui si era arrampicato. Dall'assù, dall'albero dove aveva dormito, prima del calar del sole aveva visto altri laghetti abbastanza vicini tra sé e durante la notte aveva fatto un bel sogno: trasferire a valle tutta la sua famiglia, perché dove c'era acqua così abbondante c'erano sicuramente la selvaggina che vi si abbeverava, le piante con bacche e frutti, e nei laghetti c'erano sicuramente i pesci, facili preda da catturare. Al fare del giorno, Alal riprese il suo cammino e scoprì che i laghetti che aveva visto dall'alto del suo dormitorio erano uno slargo di un fiumicello che tutti collegava. C'erano tanti pesci nei laghetti e animali di piccola taglia si recavano all'acqua per bere. Con piacere vide anche tanti alberi carichi di frutta, che noi oggi chiameremo meli e susini selvatici. Allora Alal tornò in collina, realizzò il suo sogno, prese con sé tutta la famiglia, la condusse al piano dove costruì una palafitta per abitare in sicurezza durante il giorno e la notte. Lui non lo sapeva, ma per primo si era insediato sui navigli che ancora oggi sono una struttura importante della città di Milano. Dopo Alal, altri si trasferirono vicino a lui e quella comunità di uomini primitivi si ingrandì. Arrivarono gli stranieri dal nord e la comunità li accettò. Arrivarono i Celti e i Romani invasori e, nonostante le lotte e le perdite di vite umane, la comunità li accettò, perché tutti erano in cerca di una vita migliore. Quelli sono il nucleo da cui è nato Milano e i milanesi. Oggi i laboriosi milanesi sanno bene che le loro fabbriche, i loro uffici, il loro commercio ha bisogno continuamente di tante braccia che lavorino insieme a loro. Per questo hanno accettato e con grande tranquillità le migrazioni avvenute nel secolo scorso e provenienti principalmente dal sud Italia. E quelli che erano i calabresi di un tempo, oggi sono assolutamente integrati nella vita della megalopoli, ma hanno una sola differenza con i discendenti di Halal. Non gradiscono e non pronuncerebbero mai l'epiteto Terun Funchun. Col passare del tempo, i corsi d'acqua di cui parlavamo, originati dai fontanili, i fontanili sono affioramenti di acqua profonda che avvengono dove strati geologici con differente permeabilità permettono alle acque di salire dal basso verso l'alto. Quindi col passare del tempo questi corsi d'acqua, in parte originati dai fontanili e poi collegati coi fiumi del territorio come l'Olona, il Seveso, permettevano la navigazione da Milano fino al Lago Maggiore e da Milano fino al mare Adriatico attraverso il grande fiume Po. Divennero quindi questi navigli via facile per gli scambi commerciali perfino con le terre d'Oriente. Tanta acqua facilmente disponibile sia per irrigare i campi sia per dissetare la città ebbe anche un importante ruolo nella strategia militare. Quando nel 1150 i milanesi scavarono e riempirono di acqua un fossato intorno alla città per difendersi dall'attacco del Barbarossa, che comunque riuscì a prendere la città e a conquistarla, ma in quell'azione di progetto militare allargarono la rete e l'efficacia dei navigli. Quella cerchia di canali scavati intorno alle mura come struttura difensiva divennero col passare degli anni un elemento importante e percorso più facile e meno costoso per distribuire le merci all'interno della città. Racconto un aneddoto. Durante la costruzione del Duomo, Gian Caleazzo Visconti concesse i diritti gratuiti di escavazione del marmo di Condoglia, che è nella Val d'Orsola, e il diritto di trasporto gratuito del materiale dalla cava fino a Milano. Il materiale giungeva al Duomo in costruzione attraverso le vie d'acqua, dal Lago Maggiore fino al Naviglio Grande, fino alla Darsena di Sant'Eustogio, che è nei pressi del Duomo. I barcaioli, che non dovevano pagare il dazio per trasportare quel marmo, esponevano sui carichi di marmo l'acronimo AUF, che in latino significava ad usum fabrice. La fabbrica era il Duomo, Si dice che nel nostro glossario la parola AUFO, AUF, cioè senza pagare imposte e dazi, derivi proprio da quell'acronimo AUF, AUFO, che concedeva l'esenzione dai dazi e dalle gabelle sui navigli per quel materiale che serviva alla costruzione del Duomo. Oggi i navigli sono una rete idrografica importante per la città, ma non più tanto utilizzata per il trasporto delle cose. Invece sui navigli di città ci sono gradevolissimi ristorantini dove si possono consumare a buon prezzo piatti tipici milanesi, librerie di usato e nuovo interessanti per gli appassionati e spazi per la passeggiata con la famiglia e con gli amici. Milano, questa città che nei secoli ha subito importanti e profonde trasformazioni, anche oggi per i suoi abitanti è un luogo eccellente. E come dicono i milanesi, Milan, l'en grand Milan. Ciao, alla prossima e saluti da Radio Big World.